Kidding, il fantastico mondo di Mr. Pickle, è una serie TV che è arrivata in Italia a novembre del 2018 e trovo che sia molto interessante e che valga la pena spendere due parole per provare a commentarla, un po' per condividere delle riflessioni che ho fatto in merito, un po' per stimolarne magari la visione perché potrebbe essere interessante e istruttiva, da tanti punti di vista diversi. Infatti la trama fondamentalmente racconta del protagonista, Jeff Piccirillo, interpretato da Jim Carrey, che è un attore, presentatore di un programma di marionette, di pupazzi, che intrattiene a quanto pare il pubblico di giovani nella televisione degli Stati Uniti. E tutto questo però è un programma che viene portato avanti per molto tempo, quindi va avanti probabilmente da una trentina d'anni, ed è riuscito quindi a coltivare l'attenzione del pubblico di più generazioni, rendendo Jeff quindi l'idolo di una vasta parte del pubblico, portando quindi a un grande affetto nei suoi riguardi e anche a un ottimo riconoscimento economico. Ma allo stesso tempo, dopo tanto tempo che è in onda il programma, un anno prima dell'inizio della prima puntata, è successo un evento drammatico, cioè Jeff ha perso suo figlio. Quindi la prima puntata della prima stagione inizia con l'anniversario del lutto della perdita del figlio, che accompagnerà quindi Jeff all'interno un'elaborazione del lutto complicata e da lui quindi affrontata in una maniera confusionaria e solitaria, perché tutto racconta tra l'altro la storia di una famiglia americana, i Piccirillo a quanto pare sono statunitensi ma hanno delle origini americane, che è molto vicino dal punto di vista professionale perché lavorano tutti insieme in questa azienda familiare della conduzione della rete televisiva, però contemporaneamente convivono in una situazione dove poi si prova a essere di aiuto gli uni agli altri, ma in un modo piuttosto complicato e poco efficace. In particolare, un aspetto che trovo molto interessante della trama è il rapporto che il protagonista Jeff ha con l'emozione della rabbia, che è un'emozione che a volte riesce a esprimere in un modo efficace, altre volte invece è totalmente slegata e incapace di essere compresa e espressa in un modo funzionale. Vediamo un attimo anche cosa è che le distingue le due cose. Per descrivere il personaggio di Jeff, tra l'altro è un personaggio quasi magico, cioè quello che fa nel rapporto con gli altri tende a funzionare e tende a essere generalmente preso positivamente. Nonostante questo, però, sono dei comportamenti suoi che comunque hanno una loro complessità e delineano tutta una personalità che in generale punta sempre a una ricerca della felicità. La filosofia di Jeff si potrebbe un po' descrivere come una filosofia vicina all'eudemonia, cioè all'idea che la felicità sia e debba essere l'ultimo, lo scopo ultimo di tutte le cose. Bisogna sempre puntare a essere felici, secondo una certa idea. E per gli Stati Uniti poi è un'idea comprensibilmente che perne la loro cultura, loro anche nella Costituzione ce l'hanno l'idea che il cittadino abbia diritto alla ricerca della felicità. Però allo stesso tempo, quindi, questo è un qualcosa che da parte di Jeff viene vissuto in maniera intensa, dato anche poi tutto il ruolo e la responsabilità formativa che gli dà il suo lavoro. Lui passa del tempo a parlare ai ragazzi, a rivolgersi ai ragazzi, quindi a quanto pare cerca sempre di avere un messaggio educativo che è uno dei suoi valori, cioè l'idea di cercare di migliorare la vita delle persone, cercare di aiutare le persone a essere felici. E questo se da un lato quindi gli permette di essere sempre incisivo e di avere un obiettivo molto chiaro per se stesso, dall'altro è qualcosa che coinvolge molto l'emozione della rabbia. Per capirci, Jeff quando propone a qualcuno di cercare di perseguire la sua felicità, di cercare di stare meglio, di cercare di andare verso la direzione che secondo lui è migliore, lui questo lo fa parlando, sì, ma a volte in una maniera molto assertiva e presente nel discorso, tanto da diventare anche scollegato proprio dal suo interlocutore. A volte Jeff ha questa idea in testa, che gli altri debbano essere felici, debbano ricercare la sua felicità, tanto da arrivare a intervenire in alcune conversazioni, saltando a che pare tutte le premesse su quello che si è detto prima, a un certo punto mettendo questa cosa in più. Ed è un pezzo questo che può risultare poi particolarmente efficace e piacevole quando percepito e accettato in un certo modo. Ma d'altro canto a volte può può essere anche vissuto come una incapacità poi di stare nel discorso, nel dialogo con l'altra persona, perché si sta comunque proponendo un'idea di come l'altro dovrebbe essere. In qualche modo, quando si fa questo, non si sta ponendo del tutto attenzione all'altra persona. E proprio per questo, l'assertività che Jeff riesce a utilizzare nel portare avanti questa sua idea è un'assertività che comprende un certo margine di rabbia e di aggressività. Cioè, c'è l'idea che l'altra persona, sì, ok, mi sta dicendo un sacco di cose, ma dovrebbe invece dirmene altre, pensarne altre. C'è un gesto aggressivo nell'essere assertivi verso qualcun altro. E Jeff su questo riesce bene. C'è una modalità di espressione della rabbia funzionale e sana quando la felicità è a essere messa al centro del discorso, la felicità degli altri. Mentre quando la felicità è quella di Jeff, la situazione diventa più complicata. A volte autorizzarsi a saper avere la stessa scala di priorità e saper mettere davanti quello che ci rende felici rispetto ad altri ideali può essere difficile e in questo caso diventa impossibile. Questa impossibilità a esprimere la rabbia anche per se stessi è l'origine poi di tutta un'escalation e una caduta di Jeff verso una direzione comunque autodistruttiva. C'è un film che mi è venuto in mente guardando Killing, non so se è un collegamento che è venuto soltanto a me oppure no, ma che riguarda un film del 95 molto bello, La Haine, l'odio, che è un film che parlava fondamentalmente di una storia in un quartiere delle periferie francesi, dove un evento che tendeva a protrarsi, ignorato, evitato, ma sempre costante, alla fine portava progressivamente verso la tragedia. In questo senso, Killing di per sé non è la stessa cosa, è qualcosa molto diverso, molto più sottile, molto più sfumato, ma comunque parla di un uomo che non sa gestire la propria rabbia quando riguarda un qualcosa di intimo, di personale, quando riguarda i propri desideri, le proprie fantasie, e stiamo parlando quindi di un rapporto non salutare con un'emozione che invece fa parte della normale gamma di espressione delle emozioni umane. Tra l'altro, diversamente da Haine, nell'odio si parlava poi di un contesto dove l'ambiente ci condiziona, cioè dove nascere in un certo contesto in qualche modo ci porta quasi necessariamente a non poter uscire da un epilogo di un certo genere. E invece Kidding fa una cosa molto diversa. Kidding racconta alcune situazioni dove, date premesse diverse, si può arrivare agli stessi risultati e date invece possibilità molto diverse, appunto, si può riuscire a mostrare delle qualità che non sono per niente scontate, anzi, avere di più a volte può corrispondere di meno e viceversa. E è qualcosa che quindi va a slegarsi dal contesto e parla molto di più di un bisogno di autodeterminarsi, che però va fatto con certe risorse e con un certo livello di difficoltà, che non sempre è possibile. E in questo telefilm questa cosa viene spiegata piuttosto bene, anche se poi va un po' dedotta forse. Questo mettere da parte i propri desideri alla lunga può creare un cortocircuito che può essere difficile da gestire. E, secondo me, la direzione appunto in cui si svolge questo telefilm è proprio in un percorso di elaborazione del lutto che va a scontrarsi con la difficoltà nell'espressione, nella comprensione e nella gestione della rabbia. E, secondo me, uno spunto che potrebbe esserci verso la seconda stagione, visto che poi il telefilm ha avuto così tanto successo che già mentre stavano pubblicando la prima stagione negli Stati Uniti avevano già confermato che ce ne sarebbe stata una seconda. Ma la seconda stagione forse potrebbe svilupparsi partendo dalla sorella del protagonista, Deirdre, che è un personaggio poco sviluppato a livello di trama, ma secondo me è estremamente interessante. E dico poco sviluppato non perché non abbia spazio nella storia, ma perché poi gli viene data poca voce, viene più vista come protagonista di eventi, ma si spiega poco lei. E E contemporaneamente però forse è un personaggio che potrebbe essere il protagonista di una seconda stagione in maniera molto più incalzante, anche perché forse a un certo punto spiega un concetto che non so se nella storia della serie viene messo come un concetto un po' magico, un po' fantasioso, o se è qualcosa che proprio ha un ruolo centrale nella narrazione del telefilm, ma a un certo punto succede che viene spiegato che chi viola i propri ideali poi perde la possibilità e la capacità di parlare al cuore delle persone, di farsi capire. In questo senso è possibile che questa sia una cosa che è successa proprio a lei, successa a suo padre, al suo nipote, a vari personaggi della storia. E Jeff, in questo senso, nell'invece essere un idealista, una persona che porta avanti i suoi ideali senza nessun compromesso, mantiene intatta questa capacità finché poi gli ideali non possono diventare invece in contrapposizione. Avere delle ottime idee, degli ottimi valori, che però vengono spinti a un eccesso di intensità, può portare a delle contraddizioni ingestibili, dove a volte poi può capitare di arrivare a dover fare delle scelte che però possono non essere scelte a cui siamo preparati. Quindi possono metterci in difficoltà e portare a poi farci sentire, a volte perché no, anche di aver contraddetto i nostri ideali. Il tutto si può svolgere in un modo molto confusionario, ma quindi anche forse altrettanto interessante, perché il telefilm poi non ha uno svolgimento banale, le cose si sviluppano spesso in modo molto interessante, e proprio per questo una cosa che poi a posteriori a me viene spontaneo chiedermi è poi come sia possibile che in una situazione simile magari non si sia fatto qualcosa in tutto il serie da serie di eventi, anche dal punto di vista del sostegno psicologico per fare in modo che gli eventi andassero in un'altra direzione. Contemporaneamente però so anche che il fatto di dire a posteriori ma con uno psicologo si può essere andata diversamente è una cosa che viene spontanea ma totalmente ingiusta. Perché poi non è detto, magari anche con uno psicologo le cose potevano andare magari in modo molto simile. E quindi in questo senso il senno di poi è un qualcosa a cui tutti noi tendiamo a volte a cedere dal punto di vista della seduzione, te l'avevo detto, ma forse è interessante per fare un ragionamento invece un po' più equilibrato, non tanto ragionare sul quanto l'inserimento magari di uno psicologo a un certo punto della trama forse avrebbe potuto permettere un contatto e uno sviluppo diverso nel rapporto con la rabbia, e così facendo quindi avrebbe potuto permettere di arrivare a eventi poi diversi. E questa è una possibilità, ma forse una riflessione più costruttiva potrebbe essere quella di pensare che in questo telefilm si parla di lutto, si parla di oncologia, si parla di differenze sociali, si parla di famiglie strutturate in maniera particolare, si parla di orientamenti sessuali, si parla di rapporti familiari, si parla di un sacco di cose molto complicate, si parla di benessere, di gestione economica, di povertà, di assicurazione, si parla di tante cose. Mi chiedo se sia possibile, non tanto in una serie TV, ma nella realtà, affrontare così tanti temi complessi senza un sostegno professionale. Questa è una domanda che mi viene da farmi, perché la realtà è troppo complessa per fare semplicemente quello che viene spontaneo. Serve provare a ragionare in modo ordinato su quello che accade e su come affrontarlo, su come ci si sente mentre lo si affronta. Perché se stessimo a cercare non tanto una risposta personale, ma una risposta assoluta, cerchio di arrivare a pensare che ci sia un modo giusto di comportarsi per tutti, che basta fare la cosa giusta e le cose vanno bene. Mentre invece la realtà è molto più complessa di così. E appunto per questo Kidding è un telefilm che apre una piccola finestra sulla complessità della vita di una famiglia travolta da un successo che forse non ha tutti gli strumenti per affrontare. Un successo mondiale di un programma che gli ha dato una visibilità su un panorama appunto globale. in una situazione quindi che può funzionare finché qualcosa non vada in una direzione diversa, finché gli eventi non diventano drammaticamente più difficili per la perdita di un figlio, che richiede una rivalutazione delle priorità e un modo di approcciarsi agli eventi che non può essere prevedibile a priori. E io consiglio la visione di questo telefilm a tutti quelli che hanno la possibilità, nell'occasione poi di avere da un lato la possibilità di essere intrattenuti, dall'altro di poter provare a riflettere e a ragionare su, sia su cosa sarebbe fatto altrimenti, sia su quali sono di quei temi magari qualcosa che va a toccare nel personale e che potrebbe essere qualcosa su cui riflettere meglio.